E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e benvenuti a Salva Danaio. Oggi vi dovete accontentare di me con questo principio di influenza, speriamo soprattutto di combatterla e di non cadere, come sta succedendo a molti colleghi anche in questi giorni. Allora, tra l'altro il tema di cui dobbiamo parlare non incoraggerà le mie difese immunitarie, perché il tema è un po' ostico quest'oggi, però trasversalmente interessa a tutti noi. Anche se per la verità adesso, quando vi dirò di che cosa parleremo, molti di voi immagineranno in realtà un certo distacco, insomma, da questo argomento. Intanto torniamo a parlare di tasse e questo già ci rende più arduo l'avvio della trasmissione, che sembrano appunto una delle novità più consistenti delle 2013. Una tassa in particolare vedrà molti cambiamenti con il nuovo anno, una delle più discusse al centro anche del dibattito politico, che dal 1 luglio subirà un nuovo aumento di un altro punto percentuale. Avrete capito che stiamo parlando dell'IVA. Può appunto sembrare in apparenza un tema che interessa pochi, invece tutte le novità che stanno arrivando stanno interessando in vario modo trasversalmente appunto tutti quanti, più o meno direttamente. Alle modifiche della disciplina dell'IVA previste dalla legge di stabilità e dagli ultimi interventi normativi anche comunitari è dedicato lo speciale IVA 2013, che è un inserto in edicola oggi con il Sole 24 Ore. All'interno dello speciale trovano spazio anche numerosi, per esempio, facsimile di fatture che evidenziano le corrette modalità di compilazione, analizzando anche i casi particolari dell'autofattura, della fattura rettificativa e di quella semplificata. Una sezione di IVA 2013 è anche dedicata al regime per cassa. Tra le principali novità, molte riguardano appunto la fatturazione. Fatture semplificate sono possibili sotto i 100 euro, fatture in formato elettronico equiparate a quelle cartacee, la possibilità per i commercianti di fare fattura anche con il registratore di cassa. Allora noi oggi cercheremo di spiegarvi al meglio tutto questo, come sempre rispondendo anche alle vostre domande che potete inviarci intanto al 349 238 6666, se volete scriverci dei messaggi. Ma per le domande più articolate, immagino che per un tema un po' complesso come quello di oggi ci vorranno delle domande in diretta per spiegare al meglio i vostri casi individuali, allora chiamateci all'800 24 00 24. Ci potete anche scrivere come sempre al nostro indirizzo di posta elettronica salvadanaio@radio24.it. potete andare su Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. E allora il tema di oggi, lo ribadisco per rendere chiara l'idea a tutti: il 2013 porta con sé molte novità relative all'IVA, non solo il prossimo aumento di luglio. Vi siete già informati come impatterà sulla vostra attività e cosa impatterà maggiormente sulla vostra vita quotidiana e sul vostro lavoro? Vi ho già raccontato appunto e spiegato i termini, i modi con cui potete interagire con noi. E con noi questa mattina ci saranno naturalmente due professionisti che hanno scritto anche sulla guida di oggi, in particolar modo uno. C'è con noi Benedetto Santa Croce, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, professore di diritto tributario comunitario presso l'Università Marconi di Roma. E avremo con noi anche Sergio Pellegrino, commercialista in Trieste, direttore scientifico Master 24 Professionisti. Anche lui è un autore frequente appunto degli articoli appunto sui temi fiscali per il Sole 24 Ore. Tra l'altro a loro già chiedo di fare uno sforzo di comunicazione molto importante, perché il tema è complicato e nel frattempo è arrivato, io non l'avevo salutato perché così non avevo capito se avesse intenzione di arrivare o meno oggi Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore. Cristiano, ciao, buon anno intanto. Grazie Deborah e buongiorno a tutti. Oggi ci dobbiamo cimentare in un tema che è tutto in salita per quello che ci riguarda, per cui a te riserverò sicuramente le domande più semplici. Chiedo molta collaborazione oggi agli ascoltatori per le domande da rivolgere ai nostri esperti. Pellegrino già collegato telefonicamente, peraltro. Sergio Pellegrino, buongiorno, buon anno. Buongiorno, buon anno a te e a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua allora, e tra un attimo dovremmo avere anche Benedetto Santa Croce. Eccolo qua, Santa Croce, buongiorno e buon anno. No, credo che invece la telefonata non sia partita, per cui adesso la ripeschiamo. Allora, prima di naturalmente addentrarci nel magico mondo dell'IVA e delle novità 2013, addentriamoci invece nel magico mondo della borsa. Sì, rivediamo oggi un po' di magia perché c'è di nuovo il segno più su tutti gli indici del vecchio continente. Abbiamo avuto un esordio boom per i mercati europei nella prima seduta dell'anno, poi qualche seduta di assestamento per gli indici europei. L'avvio della settimana è stato leggermente negativo. L'avvio della seduta anche stamattina era stato negativo, poi a metà mattinata le borse europee hanno modificato la loro tendenza e adesso abbiamo il segno più ovunque, anche se con delle prestazioni differenziate, perché rimangono un po' deboli Francoforte più 0,05, Londra più 0,14, ci sono invece un po' più sostenuti i guadagni di Parigi e di Milano, per il CAC 40 di Parigi più 0,46%, per il FTSE MIB Piazza Affari più 0,62%. I temi del giorno, beh, intanto il mercato aspettava stamattina il dato relativo alla disoccupazione europea. Abbiamo, ahimè, un nuovo dato record nell'eurozona, disoccupazione all'11,8%, record assoluto. Ad ottobre avevamo un 11,7%, un livello di disoccupazione che da quando Eurostat pubblica la serie statistica dal 95 non era mai stato toccato. E questo appunto è il dato di stamattina. Evidentemente era più o meno una percentuale che il mercato attendeva, perché non è stato appunto il mercato europeo scosso più di tanto da questa statistica. Le altre notizie economiche che si attendono in giornata: la ripresa della stagione delle trimestrali negli Stati Uniti, come al solito ad inaugurare è Alcoa a mercati chiusi stasera, dopo appunto la chiusura di Wall Street. Mercato italiano, i titoli su cui oggi Piazza Affari punta. Si ritorna ad acquistare il settore bancario. Mediobanca, miglior titolo della giornata, almeno adesso, più 2,79%. Abbiamo il Banco Popolare, più 2,76%. Azimut, risparmio gestito, più 1,88%. Unicredit, più 1,87%. Il titolo di Piazza Cordusio risale sopra i 4 euro. STM, più 1,84%. A2A, più 1,55%. Qualche novità stamattina su Generali. Il Leone di Trieste guadagna l'1,11%. Il gruppo esce definitivamente dalle attività in Europa centro orientale e chiude la partnership con il gruppo ceco PPF. E questa iniziativa, appunto, che per la verità era nell'aria da molte settimane, oggi viene salutata appunto positivamente dagli investitori. Chi invece scende? Autogrill, meno 2,21%. Il gruppo stamattina è penalizzato da alcuni commenti negativi da parte di alcuni analisti, in particolar modo da quelli di Kepler, che hanno peggiorato il giudizio sulla società. Poi Banca Monte dei Paschi, che ha preso il volo negli ultimi giorni sulla scia delle notizie relative ad un ammorbidimento degli standard di Basilea 3. Il gruppo stamattina, dopo il volo appunto degli ultimi giorni in senso positivo, oggi perde l'1,77%. Buzzi Unicem meno 1,47%, Tenaris meno 0,9%. L'euro sul dollaro torna sopra quota 1,31, lo spread fra BTP e Bund viaggia sui livelli di ieri sera a 282-284 punti base. Questo è il mercato di oggi. Noi andiamo invece all'approfondimento a cui abbiamo deciso di dedicare la puntata di Salvadanaio di oggi, le novità del 2013 per l'IVA. Il 2013 porterà molte novità agli italiani sul fronte delle tasse e in particolare per quanto riguarda l'IVA. Cambiamenti introdotti principalmente dalla legge di stabilità e da altri recenti interventi normativi che vanno ad aggiungersi all'aumento dal 21 al 22%, già programmato a partire dal 1 luglio. Tra le tante cose che cittadini e professionisti dovranno appuntarsi, ci sono le nuove regole sulla fatturazione. Dal 1 gennaio l'obbligo di emissione di fattura assume portata generale e va a comprendere quindi anche operazioni considerate finora fuori campo IVA. C'è inoltre un importante intervento sulle regole della fatturazione elettronica. Il documento digitale viene sostanzialmente equiparato a quello cartaceo. I soggetti hanno la massima libertà di individuare il formato da utilizzare, a patto che vengano rispettati i requisiti di integrità dei dati contenuti e di attribuzione univoca del documento al soggetto che lo invia. Si potrà inoltre emettere una fattura semplificata per le operazioni fino a 100 euro e indicare quindi, al posto dei dati completi del cliente, anche solo il codice fiscale o la partita IVA. Un'altra novità, poi, potrà interessare in modo particolare i negozianti. Si potrà infatti fatturare anche attraverso i registratori di cassa. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta, oppure scriveteci al 349 238 6666 se avete dei casi invece particolarmente articolati da affrontare. Avete l'opportunità di scriverci delle mail un po' più lunghe all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Allora, le novità normative sono piuttosto complesse, andiamo a quelle in cifre invece. Cristiano Dell'Oste: a luglio un nuovo ritocco dell'IVA e passiamo dal 21 al 22%. Nei giorni scorsi, con un pezzo sul Sole 24 Ore, in realtà la vigilia di Natale, così tanto per renderlo ancora un po' più indigesto a tutti i lettori, avevo fatto delle quantificazioni su quanto peserà sulle tasche delle famiglie questo incremento dell'aliquota, analizzando naturalmente vari campi, vari settori, dalle parcelle professionali all'acquisto di beni significativi e quanto altro. Insomma, che tipo di quantificazione era emersa? Ma diciamo che facciamo una premessa, parliamo dell'aumento che è stato previsto dalla legge di stabilità per il 2013. Questo aumento dell'IVA è un po' come una sorta di minaccia che incombe su di noi ormai da un anno e mezzo abbondante, perché è stato previsto dalla manovra dell'estate del 2011. Poi questo 22% sarebbe dovuto entrare in vigore forse prima di esatto, luglio. Esatto, era la manovra di Ferragosto del 2011, aveva introdotto quella che si chiama tecnicamente la clausola di salvaguardia, cioè si diceva in sostanza che per garantire l'equilibrio dei conti pubblici, se non intervenivano una serie di misure di taglio delle agevolazioni, di riordino dei bonus, che poi non sono arrivate, scattava l'aumento automatico dell'IVA. Questo aumento è stato via via depotenziato e via via differito. Ce n'è stato uno che è scattato il 17 di settembre del 2011, che ha portato l'aliquota, diciamo, ordinaria dal 20 al 21. E poi adesso la legge di stabilità per il 2013 ne ha previsto un altro che porterà l'aliquota ordinaria dal 21 al 22 a decorrere dal primo di luglio di quest'anno, dal primo di luglio 2013. Peraltro ricordiamo anche che non più tardi di un paio di giorni fa il presidente del Consiglio uscente Mario Monti ha detto che, insomma, a suo parere si potrà evitare questo aumento. Allora, questo è un tema che è già entrato in campagna elettorale, fa compagnia all'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale. La riduzione delle tasse. Vedremo quel che succederà. Di certo, tu mi chiedevi le cifre. Siamo nell'ordine dei 4 miliardi circa di euro nel complesso per questo punto di IVA. Dove potrebbe esserci l'impatto più significativo se guardiamo appunto alle abitudini di spesa e di consumo delle famiglie? Ma probabilmente sulla spesa delle famiglie, sulla spesa di, diciamo, non per alimentari, perché qui nel settore alimentari abbiamo l'IVA agevolata. Abbiamo un po' di beni, soprattutto quelli ritenuti di prima necessità, come il pane, per esempio, che vanno al 4%. Poi però diciamo che abbiamo anche il comparto dell'edilizia, che in larga parte si salva perché ha per le ristrutturazioni una buona diffusione del 10%, dell'aliquota al 10%, e poi pensiamo ad esempio agli elettrodomestici, ai mobili, ai vestiti, all'abbigliamento, ai pranzi, al ristorante, insomma tutto ciò che non è consumo essenziale ricade ovviamente nell'aliquota qualunque del 21. Utilizzo di qualunque professionista pure. Anche ovviamente tutte le parcelle professionali. Il commercialista, sì. Piuttosto che l'architetto per fare dei lavori in casa, piuttosto che il dentista. Esattamente. Rilascia la fattura. E questo è un altro discorso delicato, perché quando si fa l'aumento dell'IVA, noi abbiamo visto che il governo Monti ha fatto la manovra con l'IMU e ha avuto esattamente il gettito che si aspettava, perché l'IMU si paga su valori catastali, gli immobili non scappano, sono appunto immobili, e quindi si è certi di quel che si incassa. Con l'IVA ci sono due variabili quando si va a toccare l'IVA. La prima, che dicevi tu, è il rischio di evasione fiscale, che ovviamente cresce l'imposta e cresce anche, diciamo così, l'incentivo negativo a pagarla in qualche modo, no? L'incentivo ad evaderla, e questo è un rischio. E poi c'è l'effetto sui consumi, perché comunque abbiamo visto già dopo il primo aumento di un punto percentuale che l'inflazione è leggermente aumentata e i consumi sono leggermente diminuiti, e queste sono due cose abbastanza pericolose. Allora, questa, come dire, è l'affresco che abbiamo disegnato con Cristiano Dell'Oste su quello che potrebbe cambiare relativamente ai consumi con l'impatto dell'aumento dell'aliquota ordinaria IVA, che dovrebbe partire appunto da luglio, a meno che chiaramente la nuova compagine governativa che emergerà dalle elezioni di fine febbraio appunto riesca a mettere in campo qualche iniziativa normativa che ci dia l'opportunità di scamparla. Adesso questo lo vedremo appunto solo fra qualche settimana. Nel frattempo però ci sono delle novità normative che invece entrano in vigore da subito, introdotte dalla legge di stabilità, ma Benedetto Santa Croce anche da una serie di adempimenti comunitari che il nostro paese naturalmente ha dovuto recepire, appunto adottare in questo campo. Quali sono appunto le novità più rilevanti? Noi un po' ne abbiamo indicate anche nella nostra scheda, ma appunto tra per esempio i professionisti, le cose più importanti che cambieranno con queste novità quali sono? Allora, innanzitutto l'adempimento evidentemente entra in vigore dal 1 gennaio 2013 e anche ventilazioni di spostamenti ovviamente non ci sono, però il problema è che riguardano in modo particolare gli adempimenti, cioè non ci sono delle modifiche sostanziali ma ci sono modifiche negli adempimenti, e sul piano degli adempimenti sicuramente innanzitutto l'estensione delle fatturazioni, cioè la fatturazione che prima la facevamo evidentemente limitata alle operazioni rilevanti, adesso viene estesa per esempio a tutte quelle operazioni che non sono rilevanti sul piano della territorialità, quindi le fatture nei confronti di consulenti esteri piuttosto che evidentemente le fatture che sono legate a operazioni che vengono realizzate in altri paesi vengono attratte ad un obbligo di fatturazione, e questo obbligo di fatturazione poi corrisponde da una parte delle sanzioni per chi non fa la fattura e dall'altra evidentemente a un incremento degli adempimenti corrispondenti. Sul piano della fattura poi vengono introdotte anche delle piccole novità ma che hanno una certa rilevanza, cioè il primo è rappresentato dal fatto che le fatture in modo formale devono contenere necessariamente tutte le fatture, quelle nazionali, quelle internazionali, devono contenere necessariamente la partita IVA del soggetto cessionario e il codice fiscale nel momento in cui la fattura viene emessa nei confronti di un privato. Di fatto è una anticipazione o meglio una obbligatorietà che è collegata poi all'elenco clienti fornitori, allo spesometro che quest'anno anche lui entra nel vivo sotto forma di elenco clienti fornitori senza limiti. Altro tema è il tema evidentemente della tempistica e degli adempimenti formali, perché sul piano della tempistica evidentemente vengono previste delle nuove regole, per esempio per le prestazioni internazionali comunitarie e non comunitarie generiche, dove viene stabilito un obbligo di fatturazione entro il 15 del mese successivo. Questo poi si abbina anche a una serie di complicazioni che avevamo già dall'anno scorso sull'individuazione del momento di fatturazione. Una novità che è particolarmente interessante nel senso della convenienza e poi della gestione dell'IVA è sicuramente il nuovo regime dell'IVA per cassa, che è entrato in vigore già dal primo di dicembre del 2012 ma entra nel vivo dal primo di gennaio per tutti coloro che vogliono adottarlo. Che cosa vuol dire Santa Croce aderire al regime dell'IVA per cassa? Allora, l'IVA per cassa è una grande convenienza perché sostanzialmente consente di versare l'imposta solo nel momento in cui si è pagati. Ovviamente a contrario si può detrarre l'imposta solo nel momento in cui si paga il proprio fornitore. Aderire significa introdurre, e questo lo introdurremo poi nella dichiarazione, quindi anche a posteriori, bisogna formalizzare una opzione, quindi bisogna opzionare questo criterio. Il problema è innanzitutto quando lo si opziona questo criterio, cioè la questo allora l'opzione lo faremo nella dichiarazione IVA di quest'anno, quindi a posteriori rispetto al momento in cui cominciamo a lavorare, quindi poniamo il caso operazioni che cominciamo a lavorare a IVA per cassa dal 1 di gennaio del 2013, evidentemente poi la nostra opzione la andremo a introdurre probabilmente in unico 2012, quindi sostanzialmente a settembre del 2013, quindi lo avremo con 9 mesi di ritardo. Quindi che cosa invece devono fare questi soggetti che vogliono aderire? Ma primo, controllare che il loro volume d'affari non sia superiore nell'anno precedente a 2 milioni di euro, perché questa è la soglia di entrata in questo regime. Secondo, indicare nelle proprie fatture nei confronti dei propri clienti il fatto che abbiano aderito all'IVA per cassa. Quindi introdurre una gestione fattura per fattura, una gestione per andare a vedere quando versare l'imposta e quando ovviamente andare a detrarre la relativa imposta per le operazioni passive. Quindi l'opzione si farà 9 mesi dopo, ma adesso bisogna cominciare a emettere le fatture già con scritto IVA per cassa, certo, sopra, nei confronti dei nostri clienti. Sì, abbiamo terminato il primo round di comunicazioni da dare agli ascoltatori, così glieli facciamo digerire Santa Croce, e poi vado già alla seconda parte con Sergio Pellegrino, a cui, di cui rimando l'intervento a questo punto nella seconda parte della trasmissione. Direi però già di incamerare qualche richiesta di suggerimento da parte degli ascoltatori, così grazie a loro entriamo più nel concreto della questione di questa mattina, che naturalmente a spiegarla così in termini didattici e legislativi è piuttosto complessa, forse è meglio appunto concretizzarla. Gianfranco dalla provincia di Bergamo, lo saluto, buongiorno e buon anno Gianfranco. Buongiorno, grazie altrettanto a lei e a tutti i suoi presenti. Sì, ci dica. Niente, io sono un privato cittadino e ogni tanto nell'arco degli ultimi 2 o 3 anni mi capita di dover fare delle prestazioni occasionali, sì, dove alcuni conoscenti mi chiedono appunto di dargli un servizio. È cambiata l'aliquota, mi devo attenere a qualche particolare forma con fatturazioni magari diverse dalla solita ritenuta, oppure niente, tutto come prima? Rimane tutto inalterato per lei, Gianfranco. Con noi questa mattina Cristiano Dell'Osta delle Sole 24 Ore, Benedetto Santa Croce, esperto in materia fiscale per Il Quotidiano, e tra un po' sentiremo anche Sergio Pellegrino, commercialista in Trieste, un altro degli esperti del Sole 24 Ore su questi argomenti. 800 24 00 24, il numero verde appunto per poter intervenire. Abbiamo sentito la questione che ci ha posto Gianfranco dalla provincia di Bergamo. Sergio Pellegrino, allora chiedo aiuto a lei per rispondere al nostro primo ascoltatore di oggi, che ci diceva: come privato cittadino qualche volta mi capita di dover prestare effettuare delle prestazioni appunto professionali occasionali che si fa remunerare attraverso la modalità della ritenuta d'acconto. Cambia qualcosa per questo lavoratore, per la modalità, per questo professionista, adesso non so bene come poterlo appunto definire, per le modalità di compilazione di queste ritenute d'acconto? No, allora da questo punto di vista insomma la posizione del signor Gianfranco non cambia, perché appunto lui ha specificato il fatto che occasionalmente effettua delle prestazioni, quindi non è un soggetto passivo d'imposta, visto che per diventare soggetto passivo IVA c'è il presupposto dell'abitualità dell'attività, quindi lui continuerà esattamente a fare prestazioni di carattere occasionale, e da questo punto di vista queste prestazioni di carattere occasionale sono assoggettate come era in precedenza alla ritenuta del 20%, e quindi si limiterà a dichiarare il reddito diverso. Quindi dal punto di vista dell'IVA non è un soggetto passivo di imposte, e quindi l'operazione non è rilevante. Qui sottolineo un aspetto, perché molte volte viene trascurato, e cioè il fatto che per i collaboratori occasionali c'è la necessità di assoggettare a ritenuta anche gli eventuali rimborsi spese. Quindi questo capita molto spesso, di vedere che non viene seguito questo tipo di comportamento, ma è un aspetto che invece va doverosamente tenuto in considerazione. Mm-hmm. Cristiano Dell'Osta voleva aggiungere qualcosa? Sì, volevo solo precisare, magari è utile agli ascoltatori, che con ogni probabilità Gianfranco, il nostro ascoltatore, neanche ha la partita IVA se si tratta di prestazioni occasionali, ma è una situazione diciamo del tutto legittima, come spiegava appunto Sergio Pellegrino. Quindi in questo caso si può fare a meno anche della partita IVA. È vero che cambia anche, ci chiede Maura da Vicenza al 349-238-6666, il sistema di numerazione delle fatture? Sergio Pellegrino, ritorno da lei. Sì, allora cambia, diciamo che ci sono delle novità importanti nell'articolo 21 che appunto regola la fatturazione, e una l'ha messa già in evidenza prima Benedetto Santa Croce, e cioè la necessità di indicare la partita IVA del cliente e il codice fiscale nel caso in cui si tratti di un privato, e questo già di fatto comporta la necessità per tutti gli operatori IVA di adeguare i loro sistemi di fatturazione, quindi un aspetto sicuramente da non trascurare. C'è una novità anche per quanto riguarda l'obbligo di numerazione, e cioè viene meno il riferimento che c'era in precedenza nell'ambito della norma all'anno solare, cioè la necessità sostanzialmente di far ripartire il numeratore delle fatture ad ogni anno solare. Quindi la norma oggi ci dice nella nuova versione che la fattura deve avere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco. Quindi potenzialmente noi potremmo utilizzare la stessa numerazione senza appunto far ripartire il contatore ad ogni inizio dell'anno, però chiaramente a livello operativo dopo qualche anno avremo delle numerazioni impossibili. Quindi da un punto di vista sostanziale possiamo continuare come in precedenza a collegare la numerazione ad ogni singolo anno solare, ad ogni periodo di imposta, però è opportuno a questo punto che ci sia proprio l'evidenza del suffisso, quindi la fattura numero 1/2013 e così via, e allo stesso modo negli anni successivi. Pellegrino, so che lei in questo periodo sta andando un po' in giro per varie città insieme ad un altro suo collega che spesso interpelliamo anche su questi argomenti, incontrate molti professionisti che a cui dovete spiegare appunto le novità legislative. Quali sono i dilemmi più diffusi, le questioni più problematiche nell'applicazione di queste novità? Diciamo che negli ultimi mesi c'è stato un intervento rilevante che ho visto trattato anche nell'ambito dello speciale del Sole 24 Ore, che è quello delle nuove regole dell'IVA nell'ambito del comparto immobiliare. E direi che il dilemma più diffuso e più in generale è quello relativo alla responsabilità solidale negli appalti, che diciamo quindi siamo al di fuori dalle tematiche IVA, squisitamente IVA, ma la responsabilità solidale negli appalti, visti anche gli aspetti ancora di dubbio e di scarsa chiarezza proprio nel dato normativo, sono probabilmente l'elemento che insomma genera più dubbi nei professionisti e anche negli operatori. E poi invece il grande interesse è sicuramente per l'IVA per cassa, perché in questo momento così difficile da un punto di vista finanziario rappresenta insomma un aiuto che può essere importante. Infatti. Per molti. Allora ritorniamo alle operazioni che ci aveva cominciato ad indicare ad inizio trasmissione Benedetto Santa Croce, le operazioni considerate fino ad ora le cosiddette fuori campo IVA. Andiamo a Marcello dalla provincia di Alessandria, perché credo che voglia chiederci qualcosa relativamente all'attività di aziende con sede a Londra, se non ho capito male. Marcello, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora sì, io sono un operatore, una SAS in Italia, e fornisco servizi di assistenza al commercio per un'azienda londinese. Sì. Allora, con questi servizi vengono svolti in Italia, ma io fatturo a questa azienda londinese. Quindi fino ad oggi fatturo esente IVA articolo 7. Volevo capire se c'erano delle differenze in futuro e se c'erano, nel caso, cosa cambiava per me per il discorso della gestione IVA per cassa. Certo, magari con qualche buona notizia. Marcello, la ringrazio. Benedetto Santa Croce. Ci può aiutare, sì. Per quanto riguarda le fatture fuori campo nel caso specifico, quindi servizi nei confronti di un soggetto comunitario, quello che cambia effettivamente è la tempistica di fatturazione, perché deve avvenire necessariamente entro il 15 del mese successivo. La fatturazione diventa obbligatoria, ma di fatto in Italia per i servizi generici era in qualche modo già contemplata dall'articolo 21, adesso è ricompresa nell'articolo 21,6 bis, quindi c'è l'obbligo di fatturare, l'obbligo in ragione di questi servizi di fare il modello Intrastat e quindi di riepilogare queste operazioni che vengono fatte nei confronti di questo soggetto e l'ulteriore obbligo, ripeto, la tempistica da dover necessariamente rispettare, mentre prima evidentemente questa tempistica non era così evidente. Che cos'è questo modello Intrastat che ha citato Santa Croce, così lo spieghiamo anche agli ascoltatori? Allora, tutte le operazioni che vengono realizzate con fornitori comunitari, quindi all'interno dei 27 paesi, sono soggetti ad una comunicazione di monitoraggio di queste operazioni, quindi periodicamente, mensilmente o trimestralmente noi facciamo una comunicazione al fisco per tutte le operazioni che abbiamo realizzato con gli altri Stati membri, indicando chiaramente, come nel caso di specie, il GB, cioè il codice identificativo del soggetto inglese, e che cosa materialmente abbiamo realizzato. Questi modelli Intrastat sono un adempimento piuttosto oneroso per i nostri contribuenti e per i professionisti che genericamente li fanno, e in questo caso diventano più ampie un attimino queste attività, proprio perché devono coprire tutte le attività che vengono svolte nei confronti dei soggetti comunitari. Allora, ogni tanto devo cospargermi, anzi mi capita spesso per la verità, ma lo faccio senza alcun problema, il capo di cenere, perché ci sono degli ascoltatori che ci stanno facendo che ci stanno mettendo in evidenza il fatto che l'IVA sulle fatture di tipo medico, come quelle del dentista, sono esenti IVA le fatture di tipo medico, e appunto Marco ci scrive: sarebbe meglio che la conduttrice si informasse meglio prima di fare ironia gratuita sulla categoria degli odontoiatri. Avrei potuto utilizzare qualunque altro esempio e naturalmente il professionista di riferimento si sarebbe offeso. Mi dispiace, me ne scuso. Cercheremo di evitare questa ironia gratuita, come se naturalmente tutto il mondo non sapesse con che belle pratiche invece qualche volta questi professionisti si presentano e lavorano sul mercato. Per cui Marco, io mi scuso per questa inesattezza che ho detto io, ma non la faccia lei ironia su delle circostanze che sono arcinote a tutti quanti, altrimenti nel nostro paese di tanta evasione fiscale non parleremo. Non sono solamente quelle dei grandi imprenditori che fatturano all'estero, hanno società offshore, utilizzano gli yacht e quant'altro, per cui facciamo 1-1 in questa partita, Marco, che è meglio. Per cui magari Sergio Pellegrino, appunto, allora, professionisti di questo campo sono esenti da IVA. Sì. Ho detto una cosa errata prima. Sì, vabbè. Ecco. Allora, le prestazioni mediche rientrano nel campo dell'articolo 10 del decreto IVA, quindi si tratta di prestazioni esenti, come correttamente osservato l'ascoltatore. Allora, c'è un importante intervento nelle novità delle quali stiamo parlando questa mattina sulle regole relative alla fatturazione elettronica. Il documento digitale viene equiparato a quello cartaceo. Pellegrino, ci spiega meglio? Sì, allora l'intervento che è stato realizzato è quello di cercare di stimolare ulteriormente il ricorso alla fattura elettronica, che insomma, per il momento riguarda soprattutto i soggetti di maggiori dimensioni. E quindi da questo punto di vista, insomma, l'obiettivo che persegue proprio il legislatore è quello di favorire la diffusione della fatturazione elettronica. E qui abbiamo innanzitutto proprio l'indicazione che la fattura elettronica è quella fattura che viene emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, quindi viene stabilito che non c'è un formato specifico per effettuare la fattura elettronica, ma quindi tutti i formati, quelli più tradizionali come il PDF piuttosto che documenti Word eccetera, possono configurarsi come fattura elettronica. Qui però per poter parlare di fattura elettronica abbiamo innanzitutto la necessità che ci sia un preventivo accordo fra le parti, e quindi anche il soggetto che riceve la fattura elettronica deve acconsentire al fatto di considerarla tale. E poi ci sono tutta una serie di adempimenti dal punto di vista operativo per garantire il fatto che la fattura elettronica sia stata elaborata in modo conforme a quanto richiesto dalla norma, che devono essere rispettati, che devono essere osservati per considerare tale il documento, perché altrimenti nel caso in cui avessimo una fattura mandata normalmente via mail, questa fattura, se viene stampata e conservata in formato cartaceo, assume a tutti gli effetti appunto la natura di una fattura cartacea. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, stamattina stiamo affrontando, facendo arrabbiare come al solito gli odontoiatri, i dentisti, e tante altre categorie professionali. Stiamo parlando delle modifiche alla disciplina dell'IVA previste dalla legge di stabilità ed altri interventi normativi che hanno recepito appunto alcune novità comunitarie. Con noi questa mattina Sergio Pellegrino, Benedetto Santa Croce, esperti in materia fiscale per Il Sole 24 Ore, Cristiano Dell'Oste. Oggi esce tra l'altro un inserto molto dettagliato su queste novità con Il Sole 24 Ore, che tra l'altro avrà l'immancabile anche versione online, Cristiano Dell'Oste, nei prossimi giorni. Proprio così, chi lo volesse recuperare, magari non lo trovasse in edicola, dall'inizio della prossima settimana lo troverà sul sito del Sole 24 Ore. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Mi rendo conto che per qualcuno il tema stamattina è abbastanza sofisticato e complesso, lo è anche per me, molti ascoltatori appunto me lo stanno mettendo in evidenza. Che dobbiamo fare? Io non posso sapere tutto, questo è un tema che fa difficoltà a infilarsi nella mia testa, per cui ho chiesto come sempre la collaborazione appunto di validissimi esperti. Pellegrino, rimango ancora con lei un attimo per rispondere all'ascoltatore Giuseppe, che ci ha chiesto appunto se la fattura da emettere entro il 15 del mese successivo va comunque registrata e liquidata nel mese precedente di competenza. Ci traduce la domanda? Ma allora, innanzitutto bisogna contestualizzare la domanda, nel senso che prima facciamo riferimento alle fatture per operazioni comunque prive del requisito della territorialità e quindi fuori campo IVA, e quindi da questo punto di vista parliamo di fatture che non prevedono l'applicazione dell'imposta. Quindi, quindi diciamo, cambia soltanto il momento entro il quale la fattura deve essere emessa e conseguentemente anche registrata. Candido da Milano invece, ritorniamo all'IVA fuori campo, al fuori campo IVA anzi, definiamola come più ci piace. Candido, buongiorno. Buongiorno. Senta, una domanda. Noi, io e mio figlio, lavoriamo per delle società, Londra, America, Washington, eccetera. Noi emettiamo sempre fattura con IVA. Anche se abbiamo chiesto, lavorate in Italia però, Candido, per queste società internazionali, esatto. Quindi avete sia quelle, come dire, comunitarie, che lavorano in area comunitaria, diciamo, che fuori extracomunitaria. Queste società sono in Italia, a Londra, a Parigi, in America, tutta l'America, però per qualunque lavoriamo mettiamo sempre l'IVA. E quindi voleva capire che cosa cambia. Sì, no, allora, perché ho chiesto al commercialista mio, mi dice, visto che i servizi vengono svolti in Italia, bisogna pagare l'IVA. Aspetti lì, allora, Benedetto Santa Croce, come mai secondo lei Candido ha questo dilemma? No, allora l'unica cosa dovrebbe puntualizzarsi quali sono i servizi, però teniamo presente che la quasi totalità dei servizi, se non alcune particolari tipologie di servizi, vanno a essere non tassati, cioè nei confronti di operatori comunitari o extracomunitari, facendo riferimento alle prestazioni, diciamo, che possono essere prestazioni di consulenza, le prestazioni di pubblicità, le prestazioni, tutta una serie di prestazioni, le prestazioni di trasporto, quindi tutte le prestazioni, la maggior parte delle prestazioni sono detassate in Italia, perché si segue la regola della committenza, cioè si va a vedere dove è situato effettivamente il soggetto al quale facciamo questa prestazione. Ovviamente, se dall'altra parte abbiamo un soggetto cliente che è un soggetto passivo di imposta, cioè un'impresa che sta acquistando quel servizio nell'ambito dell'attività d'impresa. Se invece fosse un privato, ecco lì il problema si potrebbe porre, quindi in quel caso, seguendo la regola non della committenza ma quella del prestatore, sarebbe tassato in Italia. Però è chiaro che nell'80% dei casi, ecco, se si può avere il chiarimento su qual è la prestazione di servizio che si svolge, potremmo essere un po' più puntuali. Allora, Candido, lo abbiamo ancora? Sì, sì. Candido, sì. Ha sentito che cosa le ha risposto Santa Croce? Noi facciamo trasporto, autonoleggio con conducente. Quindi praticamente voi avete questo servizio qui in Italia, può capitare che vi chiami una società americana e vi dica: per una settimana abbiamo bisogno del vostro servizio per un nostro consulente che si reca sul territorio italiano, però chiaramente viene fatturato alla società americana. Santa Croce. Allora, qui dobbiamo, diciamo, distinguere due ipotesi, però nel momento in cui noi facciamo il trasporto con conducente vuol dire che stiamo facendo un noleggio del mezzo. Dobbiamo distinguere quello a breve termine da quello a lungo termine. In questo caso la messa a disposizione del mezzo in Italia, se ho capito bene da questo punto di vista, e il fatto che ci abbiamo il committente estero, di fatto non ci esclude dall'applicazione dell'imposta. Per cui è un e quindi fino ad ora Candido si è comportato bene, insomma. Sì, sì, ma appunto per quello che dicevo all'inizio dobbiamo chiarire qual è il servizio, perché questa è una delle ipotesi di deroga che viene prevista dalla normativa. Allora, volevo ritornare un attimo alla questione della fatturazione elettronica, perché Sergio Pellegrino, un ascoltatore, Enrico di Cerveteri, ci scrive: io sono un mediatore, ormai da qualche anno ricevo fatture via email che stampo e tengo in contabilità. Qual è la portata allora della novità di questa mattina per chi già lavorava secondo questa prassi? No, allora, come avevo detto in precedenza, se io ricevo una fattura elettronica e poi questa fattura elettronica viene conservata con modalità cartacea, allora non consideriamo, appunto, non rientriamo nella fattispecie della fatturazione elettronica. Okay. Quindi il semplice invio della fattura, come ormai è prassi diffusa in tutti i settori, via mail non è che rende la fattura elettronica. Okay. Perché ci sia la fattura elettronica ci vuole anche la conservazione elettronica da parte di entrambi i soggetti, quindi per questo dicevamo anche che ci vuole un preventivo accordo tra le parti. Tant'è che molte volte nelle mail che vengono inviate da parte dei soggetti che mettono la fattura si precisa proprio che, insomma, la fattura viene inviata via mail, ma non si deve considerare fattura elettronica e quindi deve essere stampata e conservata come le fatture inviate via posta. Che cos'è invece la fattura semplificata per le operazioni fino a 100 euro, Pellegrino? Beh, la fattura semplificata, insomma, come dice la parola stessa, cerca di semplificare un po' la vita agli operatori nel momento in cui ci troviamo di fronte però a operazioni non particolarmente rilevanti dal punto di vista dell'ammontare. Come ricordava in precedenza, il limite attuale dell'importo della fattura è di 100 euro e questo importo di 100 euro si deve considerare non sull'ammontare dell'imponibile ma sull'ammontare complessivo, quindi tenendo conto anche dell'imposta. E la semplificazione sostanzialmente consiste nella possibilità da parte del soggetto emittente di ridurre i dati che devono essere indicati nella fattura, soprattutto per quanto riguarda l'identificazione della controparte. Quindi, se facciamo il caso più tipico, se ad esempio vado al ristorante e mi devo fare rilasciare la fattura, anziché dare l'indicazione di tutti i dati che sono previsti normalmente per la fatturazione, se l'importo non supera i 100 euro, il soggetto che le emette può indicare soltanto il numero di partita IVA o il codice fiscale. Poi, questo anche nella descrizione c'è una semplificazione, perché normalmente la fattura deve indicare natura, qualità e quantità dei beni o dei servizi ceduti. Qui la norma parla della descrizione, quindi si deve ritenere qualcosa di più sintetico rispetto alla fattura ordinaria. Quindi, per certi settori, e ho fatto non a caso l'esempio della ristorazione, può essere sicuramente una semplificazione. Una semplificazione, Cristian? Sì, no, sì, c'era Cristian. Se posso aggiungere, il limite di 100 euro, che è molto basso ovviamente, la norma già prevede che possa essere elevato fino a 400 euro e poi in determinati settori anche senza limite, quindi la cosa potrebbe avere una portata maggiore in futuro. Per oggi, al momento dobbiamo tenere il conto limite di dei 100 euro. Esatto. Cristiano? Sì, volevo precisare questo e ricordare, come diceva giustamente Pellegrino, questa è una cosa che può passare, diciamo, un po', può creare qualche confusione, appunto, che i 100 euro vanno considerati rispetto all'importo finito, quindi se facciamo il caso del ristorante avremo un conto di 80 e rotti euro, 82 euro e qualcosa, che poi arriverà appunto a 100 con l'applicazione dell'IVA. E l'altra cosa che si può dire è che questa semplificazione sarà tanto più utile se si sceglierà di emettere la fattura utilizzando il registratore di cassa, perché a quel punto avremo, come dire, una bella semplificazione dei dati da gestire, da inserire. Certo. Allora, dunque, ci mancano 3 minuti di tempo prima di salutarci. Stiamo sopravvivendo, nonostante le ire degli odontoiatri, a questa trasmissione. Vorrei sentire Fabio da Roma. Fabio, buongiorno. Buongiorno, salve. La mia domanda è questa. Dico, premesso che la prestazione di un amministratore di una società o di un sindaco di una società rientra per antonomasia tra quelle riclassificabili come collaborazioni diciamo coordinate e continuative con la vecchia denominazione. Mi chiedevo, allora, per un soggetto iscritto negli albi dei revisori e anche eventualmente dei dottori commercialisti, rendere queste prestazioni soltanto e non altre lo obbliga ad essere attratto nel campo dell'IVA o no? Può continuare a svolgerla, diciamo, come prestazione coordinata e continuativa? Mamma mia, mi pulsa la testa. Benedetto Santa Croce, ce l'ho non più di un minuto di tempo per rispondere a Fabio, ma immagino che tra l'altro questo caso richieda anche un po' più tempo, però proviamo. Sì, no, però è abbastanza semplice, nel senso che il concetto di amministratore e sindaco e il concetto di collaborazione coordinata e continuativa lo escluderebbe dall'IVA sulla base dell'articolo 5, no? Il problema è che se lui è iscritto all'albo dei revisori, quindi svolge un'attività di revisione e un'attività di amministratore e sindaco, a questo punto l'attività di amministratore e sindaco rientra nell'oggetto della propria attività, quindi è attratto nel campo IVA. Se svolge solo l'attività di amministratore e sindaco come collaborazione coordinata e continuativa, in questo caso non ha l'obbligo dell'IVA. Graziella dalla provincia di Trento lavora con l'estero, fattura senza IVA e manda le fatture via mail. Cos'è cambiato? Rapidamente, Pellegrino, che cosa deve fare? Dobbiamo avere qualche informazione più da Graziella? Ci facciamo scrivere perché la trasmissione sta chiudendo. Sicuramente, allora, detta così non è cambiato moltissimo, insomma, quindi dal punto di vista, se non le cose che diceva prima Benedetto in relazione alle tempistiche, però bisognerebbe sicuramente inquadrare le tipologie di operazioni. Graziella, stiamo chiudendo, ci scusi, non riusciamo a sentirla, ci scriva e le faremo rispondere, appunto, da Sergio Pellegrino, da Benedetto Santa Croce, a Cristiano Dell'Oste, mandiamo tutti i quesiti relativi all'IVA, le ristrutturazioni, tutti gli altri temi, l'IMU che gli piacciono tanto. Grazie a tutti per averci seguito, Salvadanaio torna domani, a tutti buona giornata.